c'è il signor Giuseppe della torrefazione che mi vuole lavorare, che gli ho chiesto se mi voleva lavorare, ma ha detto di andare. Ma di tu nonna, chiama tuo padre, a tua madre e diglielo. Come ho preso e ho fatto dal telefono fisso, ho fatto il numero di mamma, no? Non mi ha risposto. Allora sono andato a casa, abitava a 300 metri mia madre da mia nonna, e gli ho detto ma, e c'era anche babbo, ho chiesto a quello della torrefazione se mi voleva lavorare, e la posso andare? Babbo, ma vedete, mi ha fatto, vai, capita, avevo preso, sono andato, ma proprio dopo una mezz'oretta sono andato, gli ho detto io sono venuto, sono pronto per lavorare, e ho detto allora vieni, mi scarica, scaricando le cassette delle lattine di Coca-Cola, portandole dentro, e mi dava 10.000 lire al giorno, 10.000 lire al giorno, io guadagnavo 60.000 lire alla settimana, a 12 anni, quindi ti fai le ossa, ormai i ragazzi non lo fanno più, non le fanno più queste cose, perché se tu lo chiedi a un genitore, dici ma lo mandi a tuo figlio a lavorare per 10.000 lire a mezza giornata, no, gliele do io 10 euro per andare in giro con gli amici, e quello è sbagliato, perché quella cosa lì, quel gesto, tu stai togliendo a tuo figlio diciamo il farsi le ossa, capito? Sì, capito. Ma guarda, io per non chiedere niente a mia madre, allora io avevo motorino, fumavo, insomma, alla settimana dovevo chiedere sempre qualcosa. Questo amico mi fa, io ci andiamo a raccogliere patate, dai, io a raccogliere patate, vabbè, da, a tutto bello addirittura, mi. Cazzo, per 20.000 lire tutto il giorno, 20.000 lire, cioè non ti pagavi, cosa facevi 20.000 lire allora? Mettevi 5.000 lire di benzina, fai quanto era, insomma ricordo anche quanto costava una sigaretta e più la roba da mangiare, ti avanzava qualche cosina, ma proprio qualche cosina, però a fine settimana avevi i soldi della settimana, quindi e tu vabbè andiamo, ma e mamma mi dice ma lascia stare, non c'è andare, fregatene, non c'è bisogno, non c'è andare, tu ma io voglio andare, sono i miei amici, e vabbè se vuoi andare allora vai, e ci divertivamo, capito? Sì, beh, ti diverti, la verità, io non avevo, tranne due amici miei, che sono due grandissimi lavoratori, gli altri erano, diciamo, andavano al mare, però poi sì, la sera, quando, e il bello era, quando uscivamo dal lavoro ci trovavamo al muretto e raccontavamo cosa avevamo fatto della giornata lavorativa. E di lì ci siamo accorti che stavamo diventando grandi, di lì ci siamo accorti che stavamo crescendo, stavamo diventando grandi, e la verità, avevamo imbigliato burro all'Ico Aridinati, avevamo preso anche cosa, cioè che ci piacevano i soldi, allora di lì era, capita, quanto guadagni tu e quanto guadagni tu e quanto ti ha dato a te, alla fine settimana, caspita, c'era questo conteggio di soldi, questa cosa di lavorare, poi anche le ragazzine che prendevano, erano, dicevano, siete cosa avete fatto oggi al lavoro, erano molto, cioè anche le donne erano diverse prima, perché si incuriosivano di quello che facevi al lavoro, e anche mio babbo oggi al lavoro ha fatto quello, mentre agli altri che non facevano niente quasi quasi li snobbavano, mi segui? Quindi era anche, diciamo, il mondo, anche la donna, adesso stiamo andando da un'estremità all'altra, però per capire no, quanto sono cambiati i tempi, tu sei, diciamo, una decina d'anni più grande di me, però quanto sono cambiati i tempi da ieri a oggi. Oggi se tu a una ragazzina gli dici ci sono andata a lavorare, quella ti snoba, perché tutti sono attaccati al computer, quindi i i tempi sono cambiati e cambiano sempre in figlio, sempre in figlio. Caspita, mi ricordo che poi quando ho fatto quel lavoro lì, 12 anni, poi tutta l'estate l'avevo fatto, e sì, tutta l'estate, non ero andato via, l'avevo fatto tutta l'estate. E poi l'anno appresso ero andato a lavorare come aiuto elettrauto, come ragazzo a pulire per terra, a passare la scopa, a ritirare le spazzole di se togliamo dai motori in avviamento, a buttare via le cinghie vecchie, da sistemare in officina, e prendevo 120.000 lire alla settimana. E io con quei soldi, io sempre con i figli amici miei, con i soldi che guadagnavamo, io sono riuscito a comprarmi il sì. Il sì. La seconda mano, quando la stiamo in bicicletta o a piedi, noi riusciamo il sì. Come fate a comprarvi il sì? Lavorando tutta nel mare, noi lavoriamo. E adesso quella mentalità lì non c'è più, non c'è più assolutamente. Però sarebbe da riattivare. Ma piove sta? Si è abbassata l'eva. Sì. Fa più freddo. È così, vabbè. Vabbè, ma sono anche i social che ti incuccano che puoi fare soldi senza lavorare, mettendoti un'app per giocare, ti fanno diventare ricco, non guadagnerai di meno di 1200 euro al giorno. Ma che cagate dicono, cazzo, la gente ci crede, perché non vedi altro, la gente stando sempre con gli occhi sopra questo cacchio di telefono. Guarda, io il telefono l'ho comprato per comodità, l'ho comprato nel lontano 91-92, no, anzi scusa, sì, l'ho comprato nel 92-93, se non mi ricordo, comunque, l'ho tenuto nascosto al mio datore di lavoro, perché se non sapevo, lui allora aveva quella valigetta che portava in giro, no, io invece avevo comprato quello, lo Storm, se non sbaglio, un altro nome, no, lo Storm era quello identico, però potevi scrivere i nomi, l'altro, quello più semplice avevo comprato io, il Family, boh, non mi ricordo, avevo pagato una bella botta, piano piano lo stipendio, abbiamo conservato il sud e abbiamo preso il telefono, ma per sfizio, non perché mi serviva il telefono a me, perché mosso, mia zia l'ho comprato. Poi con del tempo pian piano mi ho comprato anche quello da 1,5 milioni in lire, il MicroTac. E la gente dice, ma cosa te ne fai? Ma alla fine eravamo un pranzo di famiglia, no? Sapevano che io avevo il telefonino, ero l'unico della famiglia che ce l'avevo, e mio nonno, guarda, ma cosa te ne fai? Ma tu non sei un imprenditore, ma hai speso tutti questi soldi, che si gira mio padre, proprio, guarda lì, mi ha difeso quello per dire, ma scusa, ma tu glielo stai pagando? No, se lo sta pagando lui, e lascialo fare. Così è andata bene, eh? Certo, beh, finché uno non chiede niente a casa, finché non chiede niente a casa può fare quello che vuole. E noi, e poi sia io che mio fratello, abbiamo sempre contribuito alle spese economiche di casa, sempre. Non ci siamo, ma non perché ce lo imponevano, perché a noi c'è stata in parte un'educazione molto... quando ci volevano i colpi, c'erano i colpi, però ci hanno sempre insegnato l'educazione a mano. Guarda che a me, mia madre e mio padre, mi facevano più male a parole facendomi rimanere male. Ma rimanere male nel senso, non offendendo, ma facendoti più o meno sentire in colpa, nel senso tu vuoi fare quello, tu ancora c'è lui, sto facendo sempre più tante cose, prenditi, comportati bene, fanno tutte queste cose. Però sono cresciuto con un senso di responsabilità. Guarda, perché io quando sera, paura. Quando mi vedevano con quella macchina, quando soprattutto anche i miei familiari, dice, e tu te la puoi permettere questa macchina, e tu ti permettere. Stava proprio facendo domande, proprio gelosia, no? Perché magari i figli uscivano con la Panda 750, io esco in macchinone, perché io i soldi me li lavoro, io lavoro da lunedì alla domenica, 12 ore al giorno, quindi mi posso comprare quello che vuoi. E i nostri genitori in queste cose ci hanno sempre appoggiato. E poi babbo una volta l'ha detto, ma ditemi una cosa, ma se tu hai comprato la macchina a manna, no? E sa di bagare i ratti, e sa di pulire la benzina, e sa di fare i tagliandi, quella era una frecciatina, fidetevi che i soldi dalla droga non gli rimangono in tasca. È vero, ma ci ho pensato a quello che state dicendo. Troppi cose a pagare, allora lei non si droga, chissù. È vero, capito. Caspita, è un ragionamento giusto qui, attenzione. Ti sto dicendo, Dino, guarda, non so se lo conosci, Simone di Agogome, il figlio, ci conoscevamo molto bene, allora Agogome era dove vicino al centro casa, e con i miei amici facevamo, eravamo appassionati di gomme, c'era la moda delle Yokohama, io ho avuto ogni serie della Yokohama montate sulla Tema e montate sulla K, perché poi avevo venduto la Tema e avevo comprato la K, la Lancia K 2000 turbo benzina, che era un mezzo cesso in confronto alla Tema. E noi, io sono andato un giorno da Agogomme e ho comprato i cerchi in lega per la Lancia Tema. Avevo montato le gomme, che non potevo neanche montarle, avevo comprato i cerchi e l'assetto, avevo pagato tra cerchi, gomme e assetto, non mi ricordo se erano o 5.000 o 5.500 euro, era tra l'euro e la lira. Non mi ricordo se erano 5 milioni o 5.000 euro, 5.000, e comunque quella cifra lì era chissà cifra, capita, eravamo assillati, però erano soldi che ci lavoravamo e poi eravamo sempre, diciamo, le persone che ha perso la macchina sono rimaste a volte anche schiantate perché ti volevi togliere i gusti dello stereo, l'impianto hi-fi, diciamo, per fare le gare di audio, i marmittoni, tutte queste cose, però ai nostri genitori non abbiamo mai chiesto niente, adesso si pretende tanto, ci sono figli ma neanche tanto grandi, che prendono, no ma io voglio il pantalone, voglio quello, quell'altro, la mamma, cosa intenti voi? Lo so, io mi ricordo una volta, con tanti sacrifici, mi devo cambiare la macchina, la prima macchina che ho avuto 127 Sport, poi ho avuto un altro 127 normale, super, e da quello mi sono comprato una Golf secondo mano, ma l'avevo pagata 7 milioni, ma cazzo era bella fiammante, quanto mi piaceva la Golf. Vabbè, come era la favola, dopo credo 4-5 anni che ce l'avevo, scendo da Pantalona, metto in folle, no, la dice di San Michele, metto in folle, stavo per arrivare Ossop, in grano marcio, e questa macchina non rispondeva. Yeah. E questa macchina non rispondeva, non si accendeva, cioè è rimasta in moto però non camminava. E poi cosa successe? No? Che schiaccio la frizione e mi parcheggio da una parte, vado a spuntare e non spuntava, la cinghia di distribuzione è rotta, si aspetta la macchina, dopo non metteva più in moto. C'era un amico mio, ho detto, io tremendo un pezzo, non so perché non mette in moto, io da incosciente, cazzo. vabbè, metto la seconda, mi trascina, metto no, non parte, porca miseria, cosa possiamo fare? Mi fa, io la portiamo allo zio che è un meccanico campagnolo, no? Per si arrangiava un po' a fare tutto. La portiamo lì, la porto lì, vabbè, valvole puntate e quant'altro. Vabbè, qua, ho detto, tu cosa dici? Riesci a metterla a posto? Ma tu qua ci provo, però, cazzo, hai fatto danno qua, Hai fatto danno, vabbè, gliel'ho lasciata, dopo 3 giorni mi chiama, io vieni a prendere la macchina, che ho la cinguetta. Ho detto, davvero, ma c'è stata, Ia, ma se lo devi fare tu, ho detto, tu devi andare da qua al concessionario, perché questa macchina non ti dura. Ho detto, cazzo, come faccio? Vabbè, mi poso in macchina, la provo, vabbè, andava bene, capi? Però effettivamente, arrivare senza macchina non mi conviene, stavo lavorando, ho quattro, quindi stavo bene. Vado e mi avvicino alla Seat e dico, una curiosità, mi vorrei cambiare la macchina, però non voglio svalutare questa che ho, perché questa a me piace tantissimo, e questa appena visto la Golfo ha detto, oh, chi sa che te la prendo subito, fammi una valutazione. Mi fa una valutazione, mi fa, guarda, non ti posso dare più di 6,5 milioni. 6,5 milioni, gli ho detto, no, guarda, per 6,5 milioni me la tengo, a meno che mi aggiungi alla macchina nuova, mi aggiungi l'autoradio e l'allarme. Va bene, affare fatto. Sono andato in domani con mio padre e poi ti porto a fare una cosa. E tu, ma io vedi come siti, lo sotto in macchina, avevo 100.000 lire in tasca. Sono andato e ho dato un acconto di 100.000 lire, ma ho preso la macchina. Ci ho guadagnato, sì, 6,5 milioni, l'antifurto, la radio, e l'ho aggiunto la macchina, poverina. Così, è un rivenditore, deve aver accuzzato. Vabbè, io, e tu vai con una piccolata, è così, no. Intanto quella garanzia arriva, se arrivare sul concessionario. Sì, ma ho preferito fare una cosa del genere che fottere un altro vendendolo, capito? Tanto cosa... Ormai a me ci arriva una macchina nuova, ma io avevo comprato la Seat Toledo nuova, cazzo, costava 30 milioni allora, era una berlina, era di anni. Io la Lanciapiano l'avevo presa a seconda mano. L'avevo presa a seconda mano e aveva intorno ai 100-140.000 chilometri, ma era il top, era il 2000 Turbo Elix, non so, tu la conosci grande? La conoscevo, io avevo la nausea dal tema, avevo la nausea perché due miei principali ce l'avevano tutti e due e l'ho anche usata, però non me l'ho presa per sempre per il fatto di non far parlare alla gente, no? Capito? Sì, questa che aveva il mio principale era il top dei top, era l'ultima uscita, perché lui è sempre stato uno che quando usciva la novità dammi il meglio, capito? Io avevo il 2000 Turbo LX, era il top del top. Oioia, se avrei, guarda, se non mi avrei comprato tutte le macchine che ho avuto, mi sarebbe uscito un cartello, avrei avuto un cartello. Carità, è giù d'onde Alfa Romeo, io. 11, io ti faccio vedere tutte le foto, 11 Alfa Romeo, tutte prese all'Automax, quindi, lasciamo perdere, oioioi, e vabbè. E semestrali e auto e macchine con 35.000 km, ho avuto 347 GTV, vabbè, tempi passati, adesso bisogna pensare alla famiglia, però abbiamo sempre lavorato, noi a casa, guarda, abbiamo sempre lavorato e non ci abbiamo, anche perché ci piacevano queste cose, le macchine, ci piacevano, caspita, un giorno vado da Usai a Sassari a comprarmi un orterio. Ascolta la scena, salgo da Usai, quanto viene questo orterio qua? E costava 3 milioni e 700 mila lire. E aspetti un attimo. Capita, farò a Puccio d'Orra. Figlio, eravamo in motorino, vado anche da mia madre, dico, ma ci saliamo a Sassari a comprare l'osterio, salgo a Sassari, prende e mi dice, va bene, andiamo e ti prendi l'osterio. Salgo a Sassari e mi compro il Perla Nera, il King, mi prendo il Perla Nera della King, 3 milioni e 700 mila lire. Lavorando proprio tranquilli, senza se, senza ma, non avevo più un soldo, capita ogni impianto stereo, e ci avevamo comprato, io avevo preso il Kenwood, e un amico mio si aveva comprato il coso, il Pioneer, il 570 si chiamava, da Usai all'emiciclo, diciamo, lo vicino a Tremendusi. Tutti i soldi che avevo da parte avevo comprato lo stereo. Intanto stavo lavorando, quindi non mi interessava nulla. Sì, cacchio, sono conosciuto, ho innamorato di quella radio lì, di Perla Nera, però sinceramente non l'ho mai comprato, perché mi piaceva, però sinceramente non era un tipo che stavo molto ad ascoltare musica, capito? Quindi non ho preso, l'ho conosciuto. Sì, ma noi ce l'ho preso, noi andavamo a vederci, noi non avevamo nessun queste cose qua, ci faceva audio, moto, ai tempi si parlava, avevo la moto ancora. Capita. Vabbè, dai. Sono cose che si potevano fare prima, adesso non si possono più fare. Ma non perché non voglio fare, è perché non si può, un ragazzo di 15 anni, 15, mi pare va più 16 anni, va più, 16, 17 anni, non ci pensa a fare queste cose, non c'è più la mentalità, dai. Poi, lascia perdere. Gabi, 2 minuti mi devi dare, che devo accendere il barbecue, così almeno mi fa un po' di braccia. E tu dammene anche 5, perché devo fare una cosa. Va bene. Dai, ci sentiamo dopo. Nel frattempo faccio la roba. Valese. Ma ragazzi, mi ha fatto venire la fame. Vabbè, dai. Ci sentiamo dopo. Va bene, dopo, dai. Ciao, buona cena. Ciao.